Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, qui da Montecitorio, per Montecitorio e dintorni. Oggi ci siamo spostati tra Montecitorio e Palazzo Madama, perché poi ieri c'è stato il voto in giunta per le elezioni e immunità che ha decretato la decadenza di Silvio Berlusconi. Adesso la parola passerà all'aula di Palazzo Madama, ma iniziamo subito con una deputata del PD, Fabrizia Giuliani, che è relatrice della legge sul femminicidio. Allora, intanto, per quanto riguarda la legge sul femminicidio, dobbiamo registrare un rinvio, il voto ci sarà martedì. Che cosa è successo? Sì. Ieri abbiamo fatto un importantissimo passo avanti, perché abbiamo cominciato a discutere una delle norme più controverse di questa legge, che riguardava la possibilità di non revocare la querela da parte delle vittime. E ritengo questo punto della non revocabilità della querela, pur corretto in qualche sua parte, comunque come un dato significativo, perché forse era l'unico scoglio. Diciamo che c'è stata una singolare convergenza, la metterei così, tra il Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà e una parte consistente della PDL o quasi, che ha votato contro l'irrevocabilità della querela, anche contro l'accordo che avevamo raggiunto che temperava questa norma. Devo dire che ha prevalso la posizione del Partito Democratico, che è stato in qualche modo garante di questo accordo, che ha sostenuto come la sicurezza per le donne non sia affatto una brutta parola, e che garantire appunto la libertà delle donne di decidere di poter mantenere scelte difficili, come quella di denunciare il proprio marito o il proprio ex coniuge laddove diventa un uomo violento, deve essere sostenuto in altro modo. Allora, in parole povere, una donna che viene perseguitata, che ha minacce da un ex fidanzato, da uno sconosciuto, da un ex marito o da chiunque, può andare a denunciare, il momento che denuncia poi non può più ritirare questa querela, è questo? Una piccola correzione a questo: l'irrevocabilità riguarda solo il reato dello stalking, è un adeguamento del reato dello stalking, riguarda il fatto che una donna potrà revocare la querela soltanto in fase processuale e comunque non potrà revocarlo in caso di maltrattamenti particolarmente gravi. Diciamo che si è voluta lasciare uno spazio di libertà alle donne che sporgono querela dal momento in cui vogliono per qualche ragione revocarla, ma questo potrà essere fatto solo in sede processuale. Questo è l'accordo sostanziale ed è un punto che io considero di grande sicurezza, perché il cuore vero di questa norma riguarda il fatto che aggredisce finalmente la violenza domestica. Perché gli omicidi contro le donne sono aumentati secondo lei? Ci sono delle statistiche? Vi siete magari incontrati con l'Istat? Gli omicidi calano e i femminicidi aumentano, quindi questo già dovrebbe dirci tutto, più di analisi raffinate di dati, che però vanno fatti. Infatti abbiamo messo dei fondi per poter continuare a monitorare i dati in maniera rigorosa. Io penso questo: non è da considerare la tutela delle donne come una tutela dei soggetti deboli. Le donne oggi muoiono perché possono scegliere di più. Non a caso le donne colpite sono le donne che abbandonano, le donne che si emancipano da situazioni di minorità o di difficoltà economica, le donne insomma che fanno scelte di vita importanti e possono scegliere. Questa loro libertà non è non solo non è tollerata da molti uomini, ma questo sarebbe un ragionamento privato. In politica noi diciamo che questa loro libertà non è sostenuta nella vita pubblica. Il nostro paese è un paese arretratissimo sui dati di occupazione, i dati di rappresentazione e quant'altro. Quindi è una società che non è preparata alla libertà delle donne. In questa chiave vanno dunque pensate queste misure non come misure di tutela, misure paternalistiche come qualcuno ancora dice a destra e a sinistra, ma invece come misure che danno alle donne la garanzia di essere sicure qualunque scelta fanno. Andiamo però ai fatti della giornata. Il PD ha votato la decadenza di Berlusconi, il governo non è caduto e tutto viene rimandato all'aula di Palazzo Madama. Lei, vabbè, è deputata. Come giudica questo voto? Ma giudico questo voto come un fatto che si è finalmente capaci di distinguere nelle sedi proprie, cioè la sede che ha deliberato per la decadenza, la distinzione tra la dimensione giuridica, la dimensione i guai privati del senatore Berlusconi dalla vita politica di un paese. Quindi io posso dirmi molto soddisfatta del fatto che le cose sono andate come noi, come il Partito Democratico aveva auspicato, nella dimensione della distinzione dei piani. Il fatto dei post 5 Stelle che rischiavano di minare, poi di invalidare il lavoro della Giunta? Guardi, io francamente non amo commentare particolarmente queste esuberanze dei 5 Stelle, perché le considero diciamo, nel migliore dei casi, come atti di irresponsabilità, come un modo di colpire comunque le istituzioni e ciò che le istituzioni stanno deliberando con rigore e sobrietà. Una sola battuta: gli eletti del 5 Stelle dovrebbero comportarsi come tali e non come elettori. Ringraziamo allora Fabrizia Giuliani, deputata del Partito Democratico, e andiamo a ascoltare il senatore del PDL Lucio Malan. Parliamo di Silvio Berlusconi. È andata come voi temevate? È andata come temevamo, è andata anche peggio, perché in più c'è stato l'episodio indecoroso di una pubblicazione, di un post su Facebook, se ho capito bene. Noi abbiamo avuto una notizia frammentaria. Sì, glielo confermo. Da parte di un membro della giunta durante la riunione, cosa che francamente sarebbe ritenuta del tutto inappropriata e probabilmente tale da rendere invalido il collegio giudicante, anche se l'oggetto del giudizio non fosse uno che forse ha evaso le tasse, come Silvio Berlusconi, a mio parere non l'ha fatto, e ci sono addirittura le prove di questo nella stessa sentenza, che pure lo condanna a 4 anni, ma nel caso si tratta di evasione fiscale, che è stata rubricata a frode fiscale, quando c'è qualcun altro di altre obbedienze politiche, invece è solo evasione fiscale, di solito neppure perseguita come tale. Allora dicevo, ma se anche si fosse trattato di un noto pluriomicida che è al processo per la 35esima accusa di omicidio, non sarebbe stato ammissibile un'espressione di questo genere, e avrebbe probabilmente causato l'invalidità del collegio giudicante. Già la nota degli avvocati di Berlusconi aveva gettato un'ombra sulla imparzialità della giunta. Lei pensa che questo andare avanti e questa decisione della giunta confermi poi i timori del PDL che non ci sia del tutto imparzialità? La prima delle richieste formulate dalla difesa, dalla memoria presentata dal senatore Berlusconi, era proprio su questo punto, e direi che questa uscita ha messo il bollo di autenticità e di totale fondatezza di questa loro eccezione che hanno presentato, che abbiamo chiesto fosse specificamente messa ai voti, è stata respinta, ma i numeri non fanno la giustizia, anche se bisogna procedere in questi modi. Senta, senatore Malan, ma dopo il voto di fiducia, lo psicodramma che si è svolto anche qui in Senato, nel PDL, in questa settimana, e questo voto, Silvio Berlusconi è ancora il presidente e il leader del Popolo della Libertà, oppure sta passando il testimone ad Angelino Alfano? A me risulta che il presidente sia Silvio Berlusconi. Abbiamo dei meccanismi all'interno del nostro movimento che prevedono delle modalità con cui si designa presidente e le altre cariche. Alla luce di queste modalità, il presidente Silvio Berlusconi dovesse decidere di trarsi da parte, evidentemente lo potrebbe fare, ma lo può fare lui, non può essere dimissionato se non attraverso i meccanismi previsti dal nostro statuto. Ma c'è un offuscamento della sua leadership? Alle riunioni dove ho partecipato io non ho visto nessun offuscamento, perché abbiamo partecipato tutti insieme alla riunione, lui ha ascoltato ciascuno di noi, alla fine ha deciso, anche contro il parere di molti, anzi di moltissimi di noi, ma ha deciso insieme a noi, e se si decide insieme si fa parte dello stesso gruppo. E questi 23 che volevano formare un altro gruppo, capitanati da Formigoni? Vedremo, dipende da loro. Io la cosa che mi dispiace è che non abbiano partecipato alla decisione insieme a noi. Se si fa parte di un gruppo, di un movimento, si decide insieme agli altri e poi si matura insieme una decisione. Noi l'abbiamo fatto e siamo arrivati a una certa conclusione che a molti non è piaciuta, ma l'abbiamo accettata. Ringraziamo allora il senatore Lucio Malan del PDL e Fabrizia Giuliani del PD. Io vi do appuntamento, come al solito, a sabato prossimo.